Bronnyware, vorrei averlo fatto, i 5 rimpianti più grandi, libro meraviglioso. Bronnyware è una donna australiana che nella vita ha fatto diversi lavori, tra cui la badante a persone moribonde. Ha racchiuso la sua esperienza toccante in questo libro tutto da divorare, commovente, struggente, profondo. Centro del libro sono i 5 rimpianti più grandi che potremo avere quando ci troveremo al termine della nostra vita. Tra un paziente e l'altro, Bronnie ha fatto anche lavori molto diversi. Una volta le fu proposto di lavorare in un centro prenatale e Bronnie racconta con grande stupore la sensazione di trovarsi a lavorare all'inizio del ciclo della vita, dopo aver accudito tanti che di quel ciclo erano arrivati al termine. E così nacque in lei un pensiero tutto particolare: pensare ai suoi clienti anziani come ai bambini che erano stati. Vedere tutte quelle giovani mamme piene di speranze per i loro bambini appena nati le fece pensare che anche i suoi pazienti erano stati bambini, bisognosi di cure, fragili, vulnerabili, come tutti i neonati. E così iniziò a pensare a tutte le persone intorno a sé come ai bambini che erano stati. Pensò a quello che erano da piccoli, quando la vita ancora non li aveva feriti, fatti soffrire e magari chiudere in se stessi. E allora comprese che ogni persona ha come una bontà primordiale nel cuore e ha bisogno che qualcuno la capisca, la comprenda e la protegga. Anche gli atteggiamenti negativi che a volte ci contraddistinguono può essere che derivano proprio da quelle ferite, da quelle paure, da quei segni che la vita ci ha lasciato e che ci ha spinto a creare quelle forme di difesa. E ognuno di noi un giorno di fronte alla morte arriverà a capire quali sono stati i suoi errori e acquisirà quella saggezza che i suoi pazienti le stavano mostrando con tanta chiarezza. Avrai capito dove voglio andare a parare. Qualunque persona oggi incontri, prova a pensare al bambino che è stato. Immagina ciò che può aver vissuto, considera ciò che può averlo ferito. In fondo siamo stati tutti piccoli bambini bisognosi di amore. Forse siamo stati anche bambini feriti. Sicuramente abbiamo tutti bisogno di amore.